e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sono le 2:26, anzi 27 in questo momento, così cerchiamo anche di essere precisi e didascalici. Stiamo vivendo questo capodanno ormai passato, quindi abbiamo iniziato questo 2019, mentre fuori imperversa la festa, qui nella nostra Ristoradio Convento chiacchieriamo con alcuni ospiti e succedono anche delle cose strane, perché dovete sapere che stasera siamo, non dico a regime massimo, ma quasi intorno alle 700-800 persone sicuramente. Può capitare, come dire, di trovare tante persone dello stesso posto, della stessa zona. È stranissimo trovare due persone, due gruppi dello stesso paese. Non so quanti abitanti faccia Casalpust. Quasi 20.000, quindi grande ma non troppo. E trovarli qui e che non si conoscano tra loro, perché mi sembrava, ecco, che fossero dello stesso gruppo, invece no. Vengono anche loro quindi da Casalpust Erlengo, come avrete sentito. E non abbiamo già intervistato un terzetto di persone che venivano da lì, ma non c'entrano con loro. Allora, partiamo dai con i nomi e le presentazioni. Ah, io sono Matteo. Allora, aspetta, scusa Matteo, vai, parla, avvicinati al microfono così ti sentiamo. Sono Matteo. Ok, poi? Antonio. Andrea. Tu ce l'hai, se vuoi, ma esatto, tu ce l'hai. Questo? Sì, insomma, dividetevi voi. Esatto, Andrea. E, allora ragazzi, intanto chiariteci un po' il gruppo che compone questa serata, quanti siete, dove sono gli altri, come siete divisi. Allora, siamo una tredicina di persone. E siamo tutti qua fuori a fare gli genenza. Altri sono a far schifo, gli altri ah, perché sono rimasti fuori, quindi sono i peggiori, c'è sono delirio, i peggiori. Fuori c'è delirio. Sì, no, fuori vi dico che non si respira e do una nota di colore per rendere migliore questa serata. Ho fatto la pipì all'1 per essere tranquillo di arrivare fino alle 6 alle 6 del mattino e non sto bevendo, perché almeno bevo tipo un sorsino ogni 40 minuti per cercare di perché se vado in bagno adesso penso che tornerò nel 2021 e quindi sto cercando di mantenermi a regime anche su quello. E allora, prima volta che state, che venite qui o ci conoscevate già? Prima volta. E come mai questa scelta, se posso chiedere? È stato un consiglio di amici e ci siamo trovati veramente molto bene. No, bene, questo ci fa piacere. Ma perché Casalpust Erlengo non brilla per locali notturni? Una volta. E come mai? Una discoteca che io... I nostri cuori. Addirittura. Che noi conosciamo molto bene, solo che adesso non c'è più. Ha chiuso. Ma sai che dopo la ogni volta intorno agli anni 2000 hanno cominciato a chiudere una dopo l'altra, chissà perché. Chiaro, per motivi economici, quindi sì, è difficile poi far quadrare. Perché è giusto anche sottolineare che tutti pensano che le discoteche siano i posti in cui c'è bello, ci si diverte e tutto il resto, ma alla fine è come avere un'azienda, quindi deve quadrare il bilancio, deve tornare tutto e se i conti non tornano va da sé che c'è poco da fare. Voi cosa fate nella vita? Lavorate in zona? Cosa? Io faccio il macellaio. Macellaio? Sì, sai che avevi proprio il physique du rôle, come si dice, del bello, mi piace. Ma in una, cioè per dire, in un supermercato? Sì. In una macelleria. Tua, di proprietà no, o no. Dipendente? Dipendente. Com'è il rapporto dei tuoi clienti con la carne? Se ne intendono o mio? Abbastanza. Sì? Ma sei uno anche che dà consiglio, rimane più nel tuo? Dai consigli? Sì. Sì? E qual è, cosa va di più? Cioè cosa ti chiedono di più? Razza italiana. Ah, neanche una carne specifica, proprio che sia italiana. Sì, italiana. Cioè pollo, no. Sì, basta che sia italiana. Sì? Sì. Cioè, quindi senti anche una sorta di, come dire, non mi viene la parola giusta, insomma, di cura verso la qualità, ecco, sì. Che è molto importante. Sì, prima di tutto. Bene, mi fa piacere. Ti piace come lavoro? Mi piace, sì. Per il contatto col pubblico per... No, o per la tipologia? Per quello che faccio. Sì, ti piace. Pubblico, ma ti capita anche di stare dall'altra parte o vendi solo? Cioè magari agli animali, non so, se vai... Cioè il tuo... vendi solo tu? Non sì. Ti capita di stare prima di andare all'allevamento a vedere? No, allevamento. Solo in vendita? Sì. Ok, bene. Voi? Allora, io invece lavoro all'Inalca. D'altro ha una R bellissima. No, è vero, è bella. Suona una bella radiofonicamente suona bene. Lavoro all'Inalca e faccio la carne per la Vodau. La carne? Mettete su una società. C'hai lui. Fai quello la carne. Quello è vero. Nel 2019. Magari. Pensateci, è buon proposito. Potremmo mettere insieme un bel negozio, forse un po' di soldi. Può essere un buon proposito per il 2019. Quindi producete esclusivi per loro. Carne per la Vodau. Ok, e il tuo ruolo è? È il pesatore di linea. Urca. In poche parole, peso tutti i tipi di carne. Sì. e le spedisco in dal paese in cui provengono. Ah, ok. È un po' un casino da spiegare. Ok, beh, però servite tutta Italia. Serviamo tutta Italia, sì. Sì, sì, anche all'estero. Contratto di esclusiva con la Radauser. Sì, sì. Però, anche qui provenienza sarà tutto italiano o ti capita di vedere anche tagli diversi? Tutto australiano, argentino e polacco. Però, tra l'altro, non so se voi frequentate, non voglio fare pubblicità, ma è veramente quello che penso. Nonostante sia una catena, un franchising associabile a McDonald's, insomma, un grande marchio, si mangia veramente bene la carne. Cioè, la carne è veramente buona. No, la Radauser. Carne è veramente buona. Curata, lui ha già l'occhio, gli ha girato l'occhio quando ha sentito. No, condivide. È la fame che arriva a quest'ora. Perché dopo essersi mossi un po'. E manca lui? Io faccio l'igienista dentale. Perfetto, che con la carne. È sempre cioè, lui tratta carne umana. Esatto. Lui. Come dire, lui ci spacca le carni nostre. Igienista dentale, un lavoro particolare, permettimi. Un lavoro che hai cercato o che ti è capitato? No, sempre cercato. È quello che volevi fare. Filatria, ma è troppo lunga da studiare. Ah, ok, troppo lunga. Piegato, ma okay. E la domanda che io faccio a ogni igienista dentale che viene qui è che il tuo rapporto con l'aspiratore, cioè sì, è no così? No, per me, cioè, per me è a metà tra uno strumento di tortura e la cosa più divertente io del mondo. Sempre che è una tortura legalizzata. Ah sì, tortura legalizzata. Cioè, tu paghi per venire lì a farti torturare. Da quello è vero, perché alla fine l'igiene non è che sia comodissima. Cioè, soldi la base di tutto. No, perché comunque vieni fuori dolorante, quello sì. Però è una cosa che è giusta. No, serve assolutamente sì. Però la faccenda dell'aspiratore è terribile. Anche perché se lo metti nel posto sbagliato, cioè, ti spacca tutta l'arcata. Perché poi ti risucchia l'anima. Bravo. Bene, ci fa piacere che continuiate nelle vostre carriere. Vi vedo tutti appassionati del vostro mondo, che questo è molto molto importante. Allora vai, avete un microfono davanti, volete salutare qualcuno, volete dire qualcosa, volete lanciare un proposito per il 2019, non lo so, sentitevi liberi di comunicare quello che vi passa per la testa. Vabbè, io... Che si possa dire, ovviamente, No, okay. Certo, sinceramente auguro a tutti un anno di buona serenità. Aspetta, c'è posta per te, sono loro quelli che sono al posterlegno. Sì, esatto. È l'altro gru, e non sono con voi quindi. Però dico non sono con voi. Però li conoscete. Quella diciamo molto è Casal Pusterlingo male. Quelli li conoscete. Ah, Casal Pusterlingo male addirittura. Bene, perdonami. Vai, riprenditi lo spazio. No, volevo dire, volevo augurare sinceramente un buon anno a tutti. Che sia un anno di Buon anno. Ecco, buon anno. No, la semplicità a volte è incisiva. Vai, signor macellaio. Saluto la mia ragazza che è fuori, gli amici e la famiglia che è a casa. Bello, bravo. Puoi concorrere per visita. Lui ce l'ha sempre lì, non so perché lui gli porge sempre il microfono, ma ce l'ha. No, anch'io mi aggrego ai miei colleghi di radio in questi auguri, alla mia ragazza, ai miei amici tutti fuori e mi raccomando. Io però non ho fatto gli auguri alla mia ragazza che è di fuori, secondo me mi insulta se mi sente. No, per ora no, però potrà insultarti in futuro, okay. Però può recuperare. Un saluto, ciao. Salutiamo. Non li vedo. Bravi, purtroppo c'è questo riflesso. Tornate a casa dopo o vi fermate in zona a dormire? Siamo qua in hotel a dormire. No, ok, poi tornate. La casa era molto tosta comunque. È lunga. Voi siete qui dal cenone o? Dal cenone, quindi dalle 8. Insomma, è dura per noi, ma è dura anche per voi. Sono tante ore. Bene, speriamo vi siate divertiti e vi siate goduti la serata. Io spero tanto di rivedervi nonostante la distanza, però magari dai, se vi capita anche nell'inframezzo, se vi capita un weekend e non sapete cosa fare, venite a fare un giro sul lago. Vi aspettiamo volentieri. Sì, noi sempre. Non ci muoviamo qua, è la nostra seconda casa. Grazie mille ragazzi, un saluto a tutto Casal Pusterlengo, bene e male, chiunque sia. E a presto, buon divertimento. Ciao. Grazie, ciao.